GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A quarta grado un rischio anche per oggi e l'Isola d'Oro si divide sulla proposta del sindaco di realizzare una sorta di Mose. Chi la trova fantasiosa, chi utile. Reintrodotti dalla legge di bilancio i voucher stagionali, una misura che divide. Ristoratori favorevoli, sindacati contrari. Perplessità sul necessario aumento dei controlli. I primi freddi riaccendono i timori per il caro bolletta. Nonostante la discesa del costo del gas, i prezzi al consumo per il riscaldamento restano alti. Le difficoltà dei condomini. L'amministratore delegato di Fincantieri Folgero interviene sul caso Varsila. Se si crea una realtà italiana, Fincantieri è pronta ad affiancarla, ma non produrremo motori. Carburanti, via libera al maxi sconto per i residenti al confine. Da gennaio in arrivo anche una app da usare quando il benzinaio non c'è. Il comune di Pordenone rivoluziona l'assetto della mobilità, via gli autobus dal centro storico, più linee e percorsi dei mezzi pubblici. Ma non tutti sono d'accordo. A Udine è inaugurata la nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi, ospiterà anche una sala polifunzionale con alti livelli di accessibilità e sostenibilità. Tutto pronto a Trieste per la grande mostra su Banksy, che si inaugura oggi. In esposizione al Salone degli Incanti 60 lavori di uno tra i più famosi e misteriosi artisti del nostro tempo. Un cordiale buongiorno da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo che vi parla. Prima di entrare nel vivo delle notizie del nostro giornale radio, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo in genere poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 9 gradi, a Gorizia e a Udine 4, a Pordenone 3, a Tolmezzo 2, a Tarvisio meno 1 grado, a Forni di Sopra meno 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 4, sul Piancavallo meno 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari meno 1 grado, a Lignano e grado 8 gradi. E le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi su tutta la regione cielo poco nuvoloso. Sarà possibile temporaneamente cielo variabile nelle ore centrali della giornata. Sulla costa al mattino sarà probabile ancora alta marea sostenuta con possibile acqua alta. Sulla zona montana, nelle aree innevate, formazione di ghiaccio al suolo e temperature più basse, mentre in quota soffierà vento da moderato a sostenuto da nord-ovest. Anche ieri dunque grado ha dovuto affrontare un nuovo flusso di alta marea che, pur essendo meno invasivo di quello di martedì, ha comunque provocato seri disagi. Intanto la proposta del sindaco di realizzare una barriera difensiva simile al Mose di Venezia ha acceso un vivace dibattito tra i gradesi. Flagellata ma indomita, Grado ritrova la sua compostezza austro-ungarica e risponde alle sferzate meteorologiche con la dignità del lavoro. Scope e ramazze spuntano dappertutto. Il picco alle 9:25 è stato di 1,44 m sul medio mare, l'ondata precedente 1,66. Allagate le zone del porto e di Colmata, dove l'acqua alta ha provocato dei blackout elettrici su cui l'intervento è stato immediato. Squadre al lavoro anche sulla linea telefonica ausiliaria che serve Grado e Fossalon, senza interruzione del servizio. Devastate le spiagge con tonnellate di alghe e detriti rimasti sull'arenile. Due imbarcazioni semiaffondate con sversamento di carburante. Ma l'argomento del giorno è la proposta del sindaco Kovac di realizzare una barriera a mare sul modello del Mose di Venezia. Il commerciante Mario Colavetta. Una proposta molto di fantasia, se fosse vero sarebbe la mano dal cielo, ma lo trovo un attimino un'idea un po' troppo grande per la località. Non la vedo fattibile, ecco. Continueremo alla vecchia maniera con le nostre paratie, un po' di stucco e silicone e ci difenderemo così. Denis Malusà, artigiano nel settore marittimo. Io sarei favorevole perché ha dimostrato di aver fatto il suo lavoro, sì, effettivamente sì, anche se non ci credevo. Poi qui a Grado è un po' difficile perché abbiamo un basso fondale nel canale. Quello che mi preoccupa saranno le manutenzioni, costi molto onerosi che giustamente saranno da sostenere. Sentiamo ora alcuni commenti tra la gente. Come si può fare un Mose? Non si può fare niente, non si, si, si è impossibile. Sono tutti pazzi. Siamo in un'isola, che Mose bisogna fare? Parancolare tutta l'isola fuori in mezzo al mare? La proposta è di difficilissima realizzazione, però comprendo le preoccupazioni del sindaco perché qualcosa va fatto. Grado Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. Tornano i voucher per il lavoro occasionale e stagionale. Sono previsti dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Tra le categorie che potrebbero avvalersi di questa nuova misura c'è quella della ristorazione. Con la legge di bilancio nel 2023 dovrebbero tornare i buoni lavoro, i cosiddetti voucher, aboliti nel 2017 per alberghi, ristoranti, bar, ma anche per colf e badanti e in agricoltura. È una misura ovviamente che si deve accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture. Proprio su questo punto alcuni esperti contattati mostrano più perplessità. Ripristinare una forma contrattuale che ha bisogno di controlli dovrebbe andare di pari passo con il potenziamento degli ispettorati del lavoro, che già, indicano sindacati esperti, faticano a far fronte alla grande mole di imprese da controllare. Nei servizi alloggio e ristorazione, coinvolti dal ritorno dei voucher, in Friuli Venezia Giulia nel 2021 sono state 198 le ispezioni in materia di lavoro. In attesa di conoscere il testo della norma, positiva l'accoglienza da parte della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, meno quella dei rappresentanti dei lavoratori. Antonio Dalla Mora, presidente della FIPE di Udine e consigliere nazionale FIPE. È un settore che ha dei grandi picchi lavorativi in alcuni giorni della settimana, specificatamente il weekend e nelle festività, e che quindi vanno gestite con una maggiore flessibilità. Inoltre è uno strumento che non sostituisce la forza di lavoro stabile, ma la integra nei momenti di maggior afflusso. Francesco Buonopane, segretario generale CGIL Filcams FVG. La pandemia ha avuto pochi aspetti ovviamente positivi, uno dei quali però è stato secondo noi riallineare le priorità delle persone e dei lavoratori. E quindi crediamo che il settore del turismo non soffra di carenza di personale perché non ce ne sia, ma perché evidentemente non è più attrattivo perché non offre condizioni salariali e contrattuali all'altezza delle aspettative. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'avvertenza Varzila all'amministratore delegato di Fincantieri, Pier Roberto Folgero, è intervenuto ieri a Trieste per chiarire la posizione del colosso della cantieristica sul futuro dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. «Noi siamo pronti ad aiutare in tutti i modi», ha spiegato Folgero. «Siccome siamo un pezzo di questo ecosistema, se si crea una realtà italiana vicina alla Fincantieri, noi siamo pronti a qualunque cosa per farla funzionare, ma solo come partner commerciale, come grande cliente, come compagno di viaggio nella ricerca e nello sviluppo. Insomma, tutto tranne la produzione di motori, perché per fabbricare un motore serve una licenza di produzione», ha concluso Folgero, licenza che Fincantieri non ha. Non è pensabile uno sviluppo economico e occupazionale solido ed equilibrato di Trieste senza una presenza industriale significativa, e l'esplosione del caso Varsila ha portato la questione sotto gli occhi di tutti. L'Associazione Luoghi Comuni dedica un incontro pubblico a questo tema alle 17.30 all'Hotel Savoy Excelsior, con contributi di esperti in grado di affrontare i diversi aspetti della questione industriale di Trieste, le possibilità del manifatturiero, la presenza crescente di start-up tecnologiche, l'integrazione con logistica e porto, le ricadute sul lavoro. Fra i partecipanti Zeno D'Agostino, Sergio Razzet, Edi Kraus e Roberta Gianni, direttrice del Piccolo. Il caro bollette pesa sui bilanci delle famiglie, un'emergenza purtroppo solo agli inizi, con il primo vero freddo di questi giorni che ha costretto tutti a riaccendere il riscaldamento. Nel servizio le interviste all'amministratore di condomini Maurizio Bucci e al presidente di Anaci di Trieste, Silvio Spagnol. È arrivato il primo freddo già, l'inverno... Per fortuna ha ritardato quest'anno il primo freddo, per cui un po' di risparmio c'è stato, però la prospettiva comunque non è sicuramente rosea, anzi... La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina e ieri il primo assaggio dell'inverno riaccendono i timori per il caro bolletta. Nonostante la discesa dei prezzi del gas sul mercato internazionale, quelli al consumo restano alti. Gli ultimi approvvigionamenti risalgono a quest'estate, quando il costo al metro cubo era ancora alle stelle. Maurizio Bucci, amministratore di condomini. Leggendo quanto i fornitori di energia ci comunicano gli amministratori, parlano rispetto all'esercizio 2020-2021, quindi di 2 anni fa, volte 3. Quindi se uno prima pagava 1.000 euro, adesso in teoria dovrebbe pagare 3.000. È chiaro che man mano che i serbatoi andranno ad esaurirsi, inevitabilmente il prezzo del gas salirà. Molto dipende dal tipo di contratti stipulati con i fornitori, se a prezzo fisso o variabile. In ogni caso si prevedono rincari pesanti. Silvio Spagnol, presidente della Anaci Trieste. Le previsioni che sono state fatte, basate poi su quello che era il valore del gas nel mese di agosto, prevedevano un costo al metro cubo superiore ai 3 euro. Mediamente il costo al metro cubo del gas era di 0,60 centesimi di euro. Proprio per contrastare il caro energia, il governo ha previsto nell'ultima legge di bilancio di eliminare gli oneri impropri sulle bollette e un bonus sociale per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Il limite massimo della temperatura in casa resta fissato a 19 gradi e c'è chi si ingegna per sfruttare l'energia del sole. Stiamo optando per i pannelli solari e usare un'alternativa al gas perché veramente facciamo fatica. Basta mettersi una felpa, un maglione in più, quelli che sono in guerra stanno peggio. Abbiamo deciso in casa di sostituire la caldaia a gas e di fare la pompa di calore. Con i pannelli fotovoltaici ovviamente perché la corrente anche quella lì è triplicata, credo che riusciremo nel futuro a non avere questi problemi. Elena Scarrone, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato la riforma dello sconto carburanti con ulteriori incentivi per chi risiede nelle zone confinarie. Scopriamo cosa cambia. Arrivano nuovi sconti sui carburanti e un super sconto nella nuova fascia zero, quella dei comuni a meno di 10 chilometri dal confine. Il contributo regionale è per tutti, indipendentemente dal reddito, dalla cilindrata e da quanto l'auto sia inquinante. Il Consiglio regionale ha approvato così a larga maggioranza le modifiche alla legge del 2010, anche con il voto favorevole del PD, mentre Movimento 5 Stelle e Open FVG l'hanno bocciato, si è astenuto il patto per l'autonomia. Nella nuova fascia zero si potrà aumentare da 1 a 10 centesimi al litro il contributo regionale. Si allarga la fascia di sconto 1 con l'ingresso di molti comuni dell'Isontino, ma restano ancora fuori dalla fascia 1 i comuni montani di Vajont e Spilimbergo. Altra novità, la app che permetterà di avere il contributo regionale anche quando il benzinaio non è fisicamente presente nella stazione di rifornimento. I costi per l'adeguamento tecnologico necessario non saranno a carico dei benzinai. L'idea è quella di arginare la fuga oltre confine per il pieno di carburante, si spera di salvare così i 250 punti vendita a rischio chiusura. Il Consiglio regionale ha inoltre approvato il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2021. Il bilancio rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di tutti gli enti, società e consorzi totalmente partecipati dalla Regione, ma anche le società in house e gli enti titolari di affidamenti diretti dalla Regione e ammonta a 11.251.200.000 euro. Il consigliere Alessandro Basso di Fratelli d'Italia ha manifestato grande soddisfazione per il buon lavoro svolto e con numeri davvero importanti che dimostrano una gestione positiva delle risorse pubbliche. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri si è svolta a Brescia l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, alla quale ha partecipato anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Per Fedriga necessaria una semplificazione delle norme e delle procedure che governano le dinamiche di spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sentiamolo. Bisogna avere sul PNRR la consapevolezza che gli obiettivi sono ambiziosi ma difficili da realizzare. Quindi dobbiamo fare anche in relazione all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, sapere anche mettere in campo quelle necessarie correzioni vista la situazione contingente cambiata radicalmente rispetto a quando il PNR è stato scritto e poi andare verso un vero processo di semplificazione che oggi si sono visti i primi passi ma non sufficienti perché le misure e la messa a terra del PNRR possa realizzarsi e la spesa delle risorse possa diventare realtà. Inoltre una riprogrammazione degli interventi comporta anche riuscire a colmare il gap che oggi c'è tra il finanziamento e il reale costo dovuto agli aumenti appunto di prezzi di materie prime ed energia. Il rischio è di perdere importanti risorse e mancare un'opportunità di sviluppo per il nostro paese. La mancata alleanza tra istituzioni comporta un fallimento del piano stesso. È chiaro che se tutte le istituzioni non si mettono a disposizione reciprocamente per realizzare il PNRR è tecnicamente impossibile realizzarlo. Per quanto riguarda molti fondi strutturali europei sono dentro la programmazione regionali, quindi se manca il collegamento con le regioni vuol dire non coordinare i piani nella migliore delle ipotesi o addirittura renderli sovrapponibili o contrastanti in altre, quindi un fallimento in entrambi i casi. Trieste si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle città europee 2022 stilata dalla commissione dell'Academy of Urbanism, l'Accademia Britannica dell'Urbanistica con sede a Cambridge. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Londra. Trieste ha superato in finale la spagnola Malaga e la belga Mechelen. Nello scorso mese di settembre la commissione giudicatrice era giunta a Trieste per valutare la città, approfondendone le caratteristiche attraverso visite, incontri e presentazioni. È un onore ricevere questo importante riconoscimento per la nostra città, risultata prima tra le città europee in base a criteri molto stringenti, ha affermato il vice sindaco Serena Tonel, presente alla cerimonia di premiazione. Questo è un ulteriore riconoscimento sul piano internazionale del lavoro che stiamo svolgendo per la vivibilità, la crescita economica e culturale, lo sviluppo e la sostenibilità della nostra città. A Pordenone è presentato il nuovo piano per la mobilità urbana. Scopriamo cosa cambia. Come mai non usa l'autobus? Perché è più comoda la macchina. Gli autobus di Pordenone girano quasi sempre vuoti. Il tasso di riempimento medio è di appena il 5%. L'amministrazione comunale, con il nuovo piano del traffico e della mobilità sostenibile, rivoluziona percorsi e uso dei bus, che spariranno dal centro storico e collegheranno periferia e città in massimo 15 minuti, grazie a percorsi radiali e non più circolari e a 3 nuove linee che confluiranno in un unico terminal in stazione. L'assessora all'urbanistica Cristina Amirante. Per quanto riguarda il centro storico, abbiamo deciso di togliere gli autobus perché l'utilizzo era bassissimo. Abbiamo deciso di portarlo ai margini del centro in modo tale da snellire il percorso ed evitare ovviamente congestione. La macchina non si trova a parcheggio e allora è meglio venire con l'autobus, però se me li tolgono dal centro non ha più scopo. Quando devo venire a Pordenone, abito a Porcia, vengo sempre con l'autobus perché mi trovo benissimo. Lei ne vede alcuni che viaggiano vuoti? Sì, ne vedo. Con una o due persone, sì. Sono previsti dei parcheggi cerniera, poco distanti dal centro, da cui entrare in città con bus, bici o monopattini. Uno dei punti che non ha convinto le opposizioni in consiglio comunale. Marco Salvador, della Civica. C'è un'incoerenza: o fai parcheggi esterni e vuoi disincentivare l'ingresso delle auto in città e pedonalizzi anche il centro, oppure dici che le auto sono necessarie per il centro. C'è una totale incoerenza, per quello abbiamo votato contro. Contestata anche la sopraelevata di Via Pola, opera strategica ma meno urgente. Se sistema di rotonde e mobilità alternativa ne riducessero la necessità, non verrà fatta. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sale studio, auditorium, aule di formazione. All'Ateneo di Udine è stata inaugurata la nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi. Polifunzionale, innovativa, accessibile e sostenibile. Queste le qualità per descrivere la nuova biblioteca del Polo Scientifico dell'Università di Udine, nata ai Rizzi. Una struttura che ospiterà anche un'innovativa sala polifunzionale con tribuna telescopica capace di trasformarsi in auditorium o sala studio a secondo delle esigenze. Uno degli obiettivi del progetto è stata la flessibilità degli spazi, un progetto che negli anni ha subito un'evoluzione per poter disporre di un vero e proprio polo culturale funzionale a un grande campus come quello dei Rizzi. Roberto Pinton, rettore Università di Udine. Il progetto, dico, è diventato più ambizioso, c'è una sala polivalente di quasi 300 posti, aule studio e aule per alta formazione, le abbiamo pensate principalmente per i master universitari. Quindi questo diventa un completamento, diciamo, del polo scientifico-tecnologico che dà anche un'autonomia non solo dal punto di vista della scientifico e didattica, ma anche di fruibilità degli spazi in relazione alla possibilità di organizzare eventi. È disposta su una superficie di oltre 5.000 metri quadri, con il piano terra e il primo piano destinati a ospitare didattica, alta formazione, biblioteca e auditorium, e il piano interrato per la biblioteca a scaffale aperto. Dispone di 36 postazioni di consultazione, 11.000 libri a scaffale aperto, 110.000 unità bibliografiche tra libri e riviste, 245 abbonamenti a riviste e 26 banche date e pacchetti di riviste. Sostenibilità: la biblioteca del Polo Scientifico è uno dei pochi edifici pubblici di queste dimensioni ad avere la certificazione Casa Clima, che attesta le caratteristiche energetiche, la sostenibilità, la qualità di un edificio in linea con la direttiva del Parlamento Europeo. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Saranno celebrati oggi alle 12 alla chiesa di San Rocco a Gorizia i funerali di Gianni Bisiak, scomparso a 95 anni domenica a Roma. Ieri è stata celebrata una cerimonia funebre nella capitale. Il feretro giungerà da Roma e sarà Monsignor Ruggero di Piazza a celebrare il rito. Era stato proprio il celebre giornalista a scegliere la sua città natale quale luogo per ricevere l'ultimo saluto. Le spoglie saranno tumulate al cimitero cittadino. Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra Banksy, The Great Communicator, oggi nel Salone degli Incanti di Trieste. A curare l'esposizione su uno degli artisti più famosi e controversi del nostro tempo è stato Gianni Mercurio, che racconta anche la difficoltà di organizzare una mostra dedicata a un artista che ha, fra le sue peculiarità, l'anonimato. Si è trattato di avere a che fare con un fantasma, cosa che per un curatore che deve organizzare una mostra su un artista vivente è abbastanza complicato. Banksy non autorizza mostre monografiche su di lui mai, che non siano appunto curate da lui stesso. E poi l'altra difficoltà, forse la maggiore, è stata quella che il collezionismo di Banksy è un collezionismo sui generis, un collezionismo selvaggio fatto per lo più di speculatori, e quindi il reperimento delle opere passa attraverso dei canali abbastanza strani. È una mostra davvero molto più complicata di altri artisti anche quotatissimi e famosi. Che cosa propone la mostra? La mostra ha un taglio innovativo a partire dal titolo, che è The Great Communicator, cioè Banksy, secondo me, ha una cifra che lo distingue da tutti gli altri, che è quella di aver creato un sistema di comunicazione della sua arte che è estremamente efficace e incredibile. Infatti le sue opere non hanno una ricerca formale, sono puri messaggi che vogliono raggiungere il più vasto numero di audience, pubblico di tutte le età, di tutti i tipi, e quindi fare un capolavoro di comunicazione che soltanto Warhol è riuscito a fare agli stessi livelli. Una delle caratteristiche poi è anche l'installazione multimediale. Sì, infatti c'è alla fine del percorso espositivo delle opere, abbiamo circa quasi 200 tra opere e oggetti vari esposti, c'è una sala multimediale dove c'è un giro per il mondo che ci mostra i suoi murales, anche i molti che non sono più visibili, e poi una animazione molto divertente su uno dei temi a lui cari, che sono i bambini. I bambini nell'arte di Banksy sono molto numerosi, sono fondamentali perché creano una forte empatia con l'osservatore. Il libro di Marcello Pera, ex presidente del Senato, Lo sguardo della caduta, Agostino e la superbia del secolarismo, sarà presentato alle 18 nella sala auditorium Beato Francesco Bonifacio nel seminario vescovile di Via Besenghi a Trieste. A introdurre la presentazione sarà l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi. Seguiranno gli interventi dell'autore, che è presidente emerito del Senato, e di Giovanni Catapano, ordinario di storia della filosofia medievale all'Università di Padova. Iniziamo la rassegna stampa dal Piccolo di Trieste, che in prima pagina ha la notizia sull'approvazione della legge sul pieno di benzina scontato. Da gennaio la app, ulteriore contributo fino a 10 centesimi per le zone di confine. Spazio anche al patto per Varzila, Fincantieri pronta a partecipare ad un piano industriale. E poi la fotonotizia sulla statua raffigurante il tallero dedicata all'imperatrice Maria Teresa. Arriverà nella notte del 7 dicembre in piazza Ponte Rosso, dove sarà collocata. Trieste Trasporti ha fissato lo sciopero dei lavoratori, sarà il 2 dicembre. Tra le motivazioni principali, lo ricordiamo, la cronica mancanza di personale. I sindacati chiedono di assumere almeno 25 conducenti. Area Schengen, l'Austria rassicura la Croazia, nessun veto sull'ingresso di Zagabria nell'area. Tra le notizie nazionali, la proposta della ministra al turismo Santanchè: detassiamo le mance ai camerieri. Anche l'edizione di Gorizia del Piccolo apre con il patto per Varsila e con il piano scontato. La fotonotizia è dedicata a Grado e all'acqua alta di questi giorni. Dopo il sindaco, anche il presidente della Confcommercio locale Madris cita il Mose, evidenziando l'urgenza di attuare una soluzione. E poi una buona notizia sul fronte della sanità transfrontaliera. Il GECT stanzia 500.000 euro per il centro salute delle donne. Lavori in corso per realizzarlo sul versante italiano, non lontano dall'ex OPP di via Vittorio Veneto. Messi a disposizione dell'ospedale di Sempeter altri 450.000 euro per il reparto maternità. Il Messaggero Veneto di Udine apre con la notizia del nuovo supersconto sui carburanti per la fascia confinaria, approvato con larga maggioranza in Consiglio regionale. La fotonotizia centrale è dedicata a un nuovo problema degli alberi di Natale a Udine. Dopo l'abete sostituito in Piazza Duomo, ora è stato necessario intervenire su quello di Via Lionello, aggiungendo nuove frasche e fissandole con fil di ferro e fascette. Tra i richiami, il caso una bomber con i 3 reperti chiavi dai quali si riparte, poi la sanità, i sindaci chiedono di rafforzare servizi e personale del pronto soccorso. Nell'edizione di Pordenone la notizia della cassa integrazione per 185 lavoratori alla cartiera di Cordenons. C'è poi il grave incidente che ieri mattina ha coinvolto a San Quirino un giovane che si recava al lavoro in monopattino e ancora il dibattito sul progetto per il nuovo edificio di 12 piani nell'area ex Padotto, che divide anche gli architetti. Le pagine della destra Tagliamento si aprono con i problemi della sanità, pochi radiologi e quelli che ci sono vanno a fare i concorsi in Veneto. Il Gazzettino richiama in prima pagina una notizia che riguarda la cittadella della salute di Pordenone, dove l'impianto fotovoltaico realizzato nel 2021 non è mai stato utilizzato. Sempre in materia di sanità, la carenza di strutture accreditate nella destra Tagliamento. Nelle pagine anche la storia di due sorelle di Casarsa che si sono laureate nell'arco di 3 giorni e la stazione di Sacile che chiude bagni e sala d'attesa. Infine lo sport, con il patto con l'ex calciatore argentino Gabriel Battistuta per una scuola calcio nero-verde. Nell'edizione del Friuli, ancora sanità, mesi in lista d'attesa per le visite urgenti e i premi per trattenere i talenti in fuga. Per la cronaca parte il processo a Paolo Castellani, l'uomo che nel giugno scorso a Codroipo aveva ucciso la moglie Elisabetta Molaro. Per la politica la corsa al dopo Dreosto per la segreteria della Lega. Tra le iniziative organizzate in questi giorni in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la pista teatrale Se non avessi più te, a cura della compagnia Teatrino del Rifo, andrà in scena alle 20:30 al Teatro Comunale Candoni di Tolmezzo. Al termine dello spettacolo spazio al dibattito, con la presenza degli artisti, di referenti della SUFC, Servizio Sociale dei Comuni, e del Centro Antiviolenza Voce Donna di Tolmezzo. A Grado in programma invece la tavola rotonda Prima che accada, la prevenzione della violenza di genere e della violenza assistita per la tutela di donne e minori, alle 17 nell'auditorium Biagio Marin di via Marchesini. L'Università di Udine illuminerà di rosso Palazzo Florio nelle notti del 24 e del 25 novembre, su iniziativa del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Ateneo, per sensibilizzare la comunità accademica e la cittadinanza sul fenomeno delle violenze e degli abusi fisici e psicologici contro le donne. L'impegno dell'Ateneo si concretizza anche con il premio di laurea aggiunto alla 6ª edizione, in memoria di Silvia Gobbato, praticante avvocata, laureatasi nell'Ateneo Friulano e uccisa nel 2013. Tavola della Pace del Friuli Venezia Giulia e Comitato di Liberazione Nazionale di Pordenone hanno convocato per questa mattina alle 11 una conferenza congiunta davanti al commissariato del governo di Trieste e alla prefettura di Pordenone per sollecitare la risposta dei rispettivi prefetti alle lettere sul rilascio dei piani di emergenza nucleare per la base di Aviano e il porto di Trieste inviate nelle scorse settimane. Nell'occasione verrà presentato il corteo contro la guerra di sabato 26 a Trieste. Un osservatorio sul potenziale attrattivo dei luoghi di confine e sulle esperienze di viaggio che varcano quei confini. È questo il filo rosso della nuova iniziativa dell'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia. Questa volta lo sguardo si estende a partire dal grande countdown per Gorizia 2025, seguendo l'esempio di Gorizia e Nova Gorizia. Appuntamento a Pordenone, nell'auditorium di Casa dello Studente Zanussi alle 17, dove si svolgerà il convegno Turismo, Confini e Cerniere. Un intervento di manutenzione straordinaria agli impianti dell'acquedotto che riforniscono la parte nord dell'abitato del comune di Tolmezzo renderà necessaria l'interruzione del servizio idrico nelle vie Paluzza, Torre Piccotta e Baviera. Saranno possibili anche nelle ore successive temporanei cali di pressione e intorbidimenti dell'acqua a causa del riavvio delle condotte. In occasione della sospensione del servizio idrico saranno portati nel piazzale della casa circondariale 500 sacchetti da 3 litri per il fabbisogno idrico che saranno distribuiti dal personale di CAFC per guasti o emergenze. È disponibile anche un numero verde 800 903 939. Celebrazione della giornata nazionale degli alberi alle 11:30 nell'area verde di Via Quarto, all'angolo con Via Villa Gloria, Udine, per promuovere un atteggiamento di apprezzamento e salvaguardia dell'ambiente. All'iniziativa parteciperanno anche alcune scuole primarie della città. Nella Sala Piccola Fenice di Trieste alle 18.30 si terrà una sfilata di abiti contemporanei di scena del Teatro Verdi con la partecipazione del maestro Walter Attanasi e di un corpo di ballo. Il biglietto d'ingresso sarà devoluto alla raccolta fondi di AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca contro sul Cancro. Un viaggio gastronomico dal Bosforo all'Anatolia profonda per raccontare anche i grandi cambiamenti che investono la Turchia contemporanea. Michele Rumiz, scrittore triestino e direttore di Slow Food Travel, presenta il suo primo libro, La grotta al centro del mondo. L'appuntamento è per le 18 nella Biblioteca Civica di Pordenone per Dedica Incontra. Conduce Claudio Cataruzza, curatore di Dedica Festival. Perché è nato il Parco Transfrontaliero della Pace? Qual è la sua storia? Quali sono i suoi obiettivi? Se ne parlerà alla conferenza organizzata nell'ambito del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, in programma alle 18.30 nella Sala Venerio della Camera di Commercio di Udine. Tra gli altri interverranno Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente regionale. La sfida della Maddalena è il titolo della conversazione con Giovanna Paolino, organizzata dal Touring Club Italiano e in programma alle 17 nella sede della Comunità Greco-Orientale di Trieste, nella sala al terzo piano. Paolin, già docente all'Università di Trieste, è una studiosa di storia e in particolare di temi di storia religiosa in età moderna. Basata su un perfetto equilibrio tra comico e tragico, divertente e vivace, ma punteggiata anche da serie riflessioni sul confine tra salute e malattia mentale, Ditegli sempre di sì è forse una delle commedie meno note di Edoardo De Filippo. A riportarla in scena da oggi fino al 27 novembre al Teatro Bobbio di Trieste è il regista Roberto Andò, con la produzione di LDF, la compagnia di teatro di Luca De Filippo, diretta da Carolina Rosi, che è anche protagonista in scena insieme a Toni Laudadio e con Nicola Dipinto. La Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta dal maestro Paolo Paroni, affiancherà la soprano Claudia Maviglia, il tenore Stefano Tanzillo e il basso Simone Deusanio in una sera all'Opera, alle 21 all'Auditorio Maldomoro di Cordenons. Il programma si snoda fra una raffinata selezione di arie, tra le più note, di Donizetti, Mozart, Verdi, Puccini, Mascagni e Cilea. Celeberrime anche le pagine sinfoniche in programma, come la Sinfonia dalla Gazzaladra di Rossini, l'intermezzo da Manon Lescaut di Puccini, o la Sinfonia dal Nabucco di Verdi, che aprirà la serata. Monio Vadia riporta in scena Oilem Goilem, lo spettacolo che lo fece conoscere al grande pubblico 30 anni fa, portando in scena la lingua, la musica e la cultura yiddish, un inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e rumeno, la condizione universale dell'ebreo errante, il suo essere senza patria, sempre e comunque. Lo spettacolo farà tappa nel circuito ERT per una sola data, questa sera al 20.45 al Teatro Lavaroni di Artegna. Il 600 alla corte degli Asburgo, un viaggio musicale tra Italia e Austria, è il titolo del concerto che l'Ensemble Praetorius terrà all'Università di Udine alle 18, nell'aula 4 di Palazzo Antonini, in via Petracco. L'autrice Angela De Ganis e Alberto Felice De Toni presentano il saggio umoristico di Umanesimo Manageriale su come cavarsela in azienda con il sorriso, manager per caso. L'appuntamento è per le 18.30 alla Libreria Moderna di Udine. Consiglia ai cittadini per prevenire furti, truffe e raggiri dal maresciallo Pierfrancesco Truscelli, comandante della stazione Carabinieri di Campoformido. L'appuntamento è alle 18 in comune a Basiliano. Consiglia ai cittadini per prevenire furti, truffe e raggiri dal maresciallo Pierfrancesco Truscelli, comandante della stazione di Carabinieri di Campoformido. L'appuntamento è alle 18 in comune a Basiliano. Ancora qualche appuntamento: l'antifragilità è il tema della conferenza conclusiva del terzo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, intitolata Oltre la resilienza, l'antifragilità per affrontare le complessità della vita, in programma alle 18 al Teatro Modina di Palmanova. Poi ancora il Circolo Amici del Dialetto Triestino ospita alle 17.30 nella sala conferenze della libreria Minerva la conferenza di Paolo Parmigiani dal titolo I boschi del Carso tra storia, natura ed emergenza, incendi. E al via la seconda edizione di Disregolati Emotivi, il novero d'incontri organizzati dalla comunità del Melograno di Lovaria di Pradamano, che si occupa di persone con disabilità intellettiva, coordinati e condotti dalla dottoressa Temporin. Oggi alle 18 il primo appuntamento in videoconferenza. Si parlerà di disturbi d'ansia e di attacchi di panico. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano che parlerà dell'Associazione per la Terza Ricostruzione del Friuli, quella energetica, dopo quella materiale del secondo dopoguerra e del post-terremoto del 1976. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Anziani, anzi no, le politiche abitative vengono fatte sulla base di dati dell'Istat, datati al lontano 2011. Ma questi 12 anni hanno cambiato moltissimo la situazione abitativa della popolazione anziana in Italia. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Ed è tutto per questa edizione che per la parte tecnica in regia ha avuto Andrea Fontanot e Riccardo Stoic. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. A risentirci alle 12.30 per il prossimo giornale radio. Da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo che vi parla, ancora l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.